La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Per me almeno è un assassino parlare sopra la voce di Elisabeth Schwarzkopf che canta Settembre, però per voi magari non interessa niente. Speravate di sentire anche oggi la danza Kuduro, invece non la sentirete nemmeno oggi, come per tutta l'estate non ve l'ho fatta sentire. L'estate è praticamente ufficialmente finita, dai, oggi è primo settembre e ormai da tanti anni abbiamo la sensazione che la vera origine dell'anno nuovo sia il primo settembre, non più il gennaio, il primo di gennaio. Un tempo le civiltà molto antiche facevano partire gli anni ad aprile, ma erano civiltà legate ancora troppo alla natura. Noi ormai la natura non la conosciamo soltanto dai biscotti, in realtà i cicli che sentiamo più vicini sono quelli del lavoro, e siccome a settembre finisce la bolla di nulla che ci ha soffocato, almeno io parlo per me naturalmente, ci ha soffocato a luglio, ad agosto, e a settembre si ritorna in città e si ricomincia a lavorare. Quelli che naturalmente sono stati via, quelli che non sono andati via, ricominciano a lavorare tout court, ma soprattutto ricominciano i corsi, i terrificanti corsi di ikebana, di sanscrito, di massaggi, quei corsi in cui vanno le vecchie signore, ma non neanche tanto vecchie, anche le 35enni a caccia così di un partner. Sono corsi che servono soltanto per trovare un partner, e infatti la terza lezione, quando ti accorgi che tra i compagni di corso non c'è niente di papabile, nulla di potabile, nulla di interessante, il numero dei partecipanti ai corsi scende, cala. Soltanto gli ebrei hanno capito tutto, solo loro, perché fanno cominciare l'anno a settembre. Quest'anno è un po' tardi, il Rosh Hashanah sarà il 28 settembre, il primo giorno. Ma noi che in realtà andavamo a scuola il primo ottobre, sappiamo gustarci settembre, perché settembre era il mese in cui non si andava in vacanza, non si aveva più voglia di giocare in cortile, non si aveva più voglia di stare a casa, si sentiva quasi la voglia di tornare a scuola. Vedevamo veramente l'estate che finiva, che moriva, vedevamo le foglie che cominciavano a cadere e ci veniva voglia di quaderni e di testi di scuola. E quindi gli ultimi giorni di settembre, quelli in cui cominciava a piovere, andavamo con la mamma a comprare i testi di scuola. Non come adesso che se la scuola finisce il 12 giugno, il 15 giugno l'ipermercato ti offre già in offerta gli zaini per il prossimo anno. Che tristezza, che generazione poveracci, di ragazzi tristi che stiamo preparando. Comunque settembre, a me settembre piace, e non a tutti è così però. Ma torno a giocare con questo dolore pensando a te. Che triste indossare un pigiama e stare qui davanti a un piccolo schermo a colori, immobile così, sentirsi un po' perduto e allora tu gridi aiuto. Ma come fa a odiare settembre, che è il mese migliore dell'anno insieme a novembre naturalmente? Quelli più tristi mi piacciono naturalmente. 800 24 00 24, perché oggi dovete chiamarmi e raccontarvi quali sono i vostri buoni propositi per l'anno nuovo. L'anno, l'ho detto, comincia oggi, non è più faccio la letterina a Babbo Natale mettendo i nuovi propositi per l'anno nuovo da gennaio in poi, no, da oggi sono sicuro che comincerete a dire: vado in palestra, non fumo più, imparo l'inglese tutti gli anni. Poi dopo due settimane naturalmente ci rinunciate. C'è un'eroina, a me piace tanto questo personaggio, sono ormai più di 10 anni che esiste e l'ho sentita molto vicino in molti momenti, che faceva i buoni propositi per l'anno nuovo, ma li faceva naturalmente il primo gennaio. Allora? Hai passato Capodanno con i tuoi genitori? Sì. E tu? Ah, no, io ero a un party a Londra ieri notte e ho paura di essermi un po' sbronzata. Avrei voluto passare la giornata a vomitare come tutte le persone normali, invece. Ah, buoni propositi per l'anno nuovo, bere meno. Ah, e smettere di fumare. E mantenere i propositi per l'anno nuovo. E smettere di dire cazzate inutili agli sconosciuti. Bene, allora smettere subito, silenzio assoluto, basta. Sì, beh, forse è ora di mangiare qualcosina. Esatto, mangiare il tacchino al curry, che era il suo preferito. Poi andava a casa, Bridget Jones, prendeva il suo nuovo diario e segnava i suoi veri propositi per l'anno nuovo. Decisione numero 1. Oh, Ovviamente perdere 10 kg. Numero 2, mettere sempre a lavare le mutande della sera prima, ugualmente importante. Trovare un ragazzo dolce e carino con cui uscire, evitando di provare attrazione romantico-morbosa per nessuno dei seguenti soggetti: alcolizzati, maniaci del lavoro, fobici dei rapporti seri, guardoni, megalomani, impotenti sentimentali o pervertiti. E soprattutto non fantasticare su una particolare persona che incarna tutti questi aspetti. E cos'è questa una distorsione spazio-temporale? No, è semplicemente un ospite che è venuto a trovarmi in studio. Ho con me Matteo Caccia. Ciao Tommaso, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. È una distorsione spazio-temporale anche per me, soprattutto, sai? Perché? Erano tipo 2 mesi che non sentivo questa roba qua, musica. Ti dà un brivido a sentirla? Sì, è come tutte le musiche, no? Sai che il potere evocativo è proprio appannaggio della musica e delle Madeleine. E dei profumi, infatti. E dei profumi. Pettegrilli diceva, la musica è seconda soltanto ai profumi in quanto potere evocativo. Ma quando, io ho fatto solo 2 mesi qui, sì. Ma quando sento la musichetta che ci fa da sigla, quello di Genka che piaceva tanto agli ascoltatori, in quel momento io ho il vuoto, non mi ricordo nulla di tutto ciò che avevo preparato. Non ti capita lo stesso? Sì, sì, assolutamente. Infatti non mi aspettavo che partisse la sigla e appena la sento partire ho detto adesso devo dire qualcosa, devo assolutamente dire qualcosa di intelligente, no, perché è molto complicato, però un minimo interessante per quelli che stanno ad ascoltare. Guarda, quello è l'effetto più o meno. L'importante è rispondere alle domande, perché è facile essere di là e rispondere, il difficile è fare la domanda. In questo caso, bravo, la domanda è: allora tu torni lunedì. Io torno lunedì, sì. Io ti ricedo il microfono, ti ricedo, sì, la fascia oraria, ti ricedo la scrivania già tutto pulito, guarda, mi sembra perfetta, sederti, comunque. Puoi già sederti, ho già preparato il cartone. E lunedì però succede qualcosa, non c'è più quello che c'era prima, cioè abbiamo cambiato pronome personale. Bravissimo, abbiamo cambiato proprio la prospettiva, direi, nel senso che per tutto lo scorso anno e in parte anche per quello prima, in sostanza il racconto era un diario della mia vita. Era un diario di quello che mi succedeva quotidianamente, raccontato e reso radiofonicamente. Dopo un anno basta. Basta per tutti, per me e soprattutto per quelli che ascoltavano. E quindi la cosa che è venuta automatica, proprio perché durante l'anno, come tu saprai, raccogli un sacco di storie, no? Delle persone che ti ascoltano, che ti scrivono, che ti chiamano al telefono. E quindi la cosa che insieme a Tiziano Bonini abbiamo pensato, e al resto della redazione, che è composta da Viola Bottoni, che è stata anche con te, giusto? È stata anche con la straordinaria noi, Viola che faceva Titanic sul canotto. Poi ti racconterò le vergogne di quella ragazza. Insomma, guarda, una parte ne conosco. L'idea era quella di prendere queste storie e renderle sotto la forma di un piccolo romanzo. Di un piccolo romanzo radiofonico che durasse il tempo di una puntata. Cioè questa puntata qua, 45 minuti, in modo che ogni giorno ci possa essere una storia di una persona diversa. Quindi l'idea che abbiamo avuto è stata non tanto di chiedere agli ascoltatori la loro biografia, cioè non raccontami da quando sei nato a dove sei adesso, ma semplicemente immaginare, ed è una cosa che non è particolarmente semplice, immaginare un episodio della propria vita che racconti qualcosa di noi meglio di altri. Chiaramente l'episodio varia da come ti senti oggi, probabilmente la cosa che ti viene in mente adesso è diversa da quella che ti veniva in mente ieri o ti verrà in mente domani, però mi sono accorto che di tutti i racconti che sono arrivati, quelli che rispondevano proprio a questa richiesta, una piccola storia che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine, in una pagina in una pagina di Word, ecco, quelle piccole storie lì che riguardavano magari un viaggio, che riguardavano un frammento di una storia d'amore, che riguardavano un ricordo, in qualche modo ti facevano capire chi era la persona che lo raccontava, senza sapere nulla di più di lui. Io spero che questo esperimento funzioni, proprio perché è il mio buon proposito a questo punto. Ecco, qual è il tuo proposito per l'anno nuovo? Ma guarda, arrivare fino al 31 di giugno, direi. Arrivare vivi al 31 di giugno. Al 31 di giugno non so se ci arrivi. No? È giugno a 30 giorni. Ecco, perfetto. Allora già il primo proposito è saltato. Proviamo il 30. Okay? Al 30 giugno. Poi magari è una domenica, quindi tipo diventa il 27, 29. Insomma, comunque sì, arrivare fino alla fine e raccontare ogni giorno una storia che abbia un senso. Saranno centinaia di storie, quindi. Sì, saranno credo attorno a 215 storie. Sono tantissime. Allora, le ascolteremo. Le ascolterò anch'io. Lo spero. Sono in auto di solito a quell'ora, per cui ti ascolterò. elicottero in auto. Dove vai? Ah, non lo so, in giro, in qualunque posto. Comunque è vero, la sigla del tuo programma era molto bella. Sì. Era molto bella e quasi quasi magari ne farei campionare un pezzo a Pietro alla Corte, in modo che ce la teniamo per il resto dell'anno e ogni tanto ne mandiamo un pezzo. Ah, va bene, così mentre vi ascolto poi dirò: ah, ma questa è la famosa sigla del programma. Reset, esatto. Grazie, grazie, grazie a te, Tommaso. A lunedì allora con Matteo Caccia. Grazie. Ciao. La sera i fuochi inondano i dintorni di luce. La tristezza non prevale su me, col canto la tengo lontana. Le giornate si allungano, sto aspettando l'estate. Sembra una presa in giro far ascoltare Battiato che dice sto aspettando l'estate al primo settembre. Perché? So che voi amate l'estate, vi siete seduti, la state aspettando. 800240024, perché voglio sapere quali sono i vostri buoni propositi per l'anno che sta per cominciare. D'altronde, se uno non ha il tempo di fare i buoni propositi adesso, di stilare la lista, è perché c'è un motivo ben preciso. La colpa è di quel macchinario che c'è in ogni luogo di lavoro, in cui succede qualcosa e intorno al quale voi vi ritrovate. La musica dovrebbe aver risolto l'arcano. All'inizio sembrava che fosse impazzita la radio. No, non è impazzita, era semplicemente cinese. Era la versione cinese di Camera Caffè. Perché questi format vanno in onda in tutto il mondo uguali, i personaggi sono gli stessi, cambia soltanto la lingua e le battute, e poi le risate finte sono sempre le stesse. Perché Camera Caffè? Perché intorno alla macchinetta del caffè vi incontrate e raccontate tutto quello che avete fatto durante l'estate. Sono stato di qua, sono stato di là, e poi alla fine succede che tutti siete stati nello stesso posto. Quest'anno, per esempio, è toccato alla Turchia. Ma erano quasi 20 anni fa che Tarkan cantava questa canzone. Quest'anno tutti quelli che sento sul tram, in metropolitana, in giro, nelle intercettazioni telefoniche, dicono che sono stati in Turchia. Non si sa come mai, veramente nascono spontaneamente queste mete. Oppure vi date appuntamento, tutti quelli che incontrate al bar per l'aperitivo, poi volete incontrare anche in vacanza. Quindi non avete trovato alcuna differenza tra l'aperitivo e Istanbul o la zona in cui siete stati. Poi vi metto altri pezzi turchi, così magari vi risentite ancora in vacanza. Cosa fate appena tornati dalle vacanze? Di solito un tempo si chiamavano gli amici e si mostravano le foto o le diapositive. Adesso no, è una cosa troppo vecchia. Adesso ci si mette davanti alla camerina, ci si inquadra, si comincia a parlare e poi si mette il filmato su YouTube e si parla su YouTube delle proprie vacanze. Sono finalmente tornata dalle vacanze e quest'anno purtroppo niente America, quindi è saltato il viaggio in America. Siamo andati in montagna, precisamente siamo andati a San Candido, a 5 minuti dal confine con l'Austria. La Jackie, la mia cagnolina, si è divertita come una matta a correre avanti e indietro per i boschi. Abbiamo preso un po' di sole e là è una zona che si mangia benissimo, anzi fin troppo bene. E io sono a dieta, però in quel periodo lì diciamo che qualcosa me lo sono concesso, perché insomma non si può rinunciare a tutto. Scusatemi, ma a me le vacanze, i racconti delle vacanze fanno dormire. Soprattutto poi quella storia del gatto, no? Cos'era, il cane che correva nel bosco e si divertiva tanto. Io propongo di istituire un nuovo crimine, ovvero l'abuso di tecnologia, perché uno dovrebbe usare YouTube per raccontare queste cose. Usiamola meglio, usiamola meno. Ho un'ascoltatrice e adesso devo svegliarmi perché c'è Maggie da Padova. Pronto, Maggie? Sì, ciao. Ciao. Aspetta che chiudo. Brava, chiudi, spegni la radio. Sono molto... Poi dopo la riaccendi però, sono mi raccomando. Brava, ascolto sempre Radio 24. Ciao, ti saluto. Intanto saluto tutti quanti i conduttori. Allora, dimmi, per farla breve, sì, due propositi, guarda. Quest'anno credo proprio che li metterò in atto, anche perché sono due cose che ho sentito molto dentro di me in questi giorni. Allora, la prima, in ufficio. Per evitare conflittualità varie, sai, cose molto fisiologiche negli uffici, nei posti di lavoro, forse la mia ricetta è farmi coinvolgere meno e concentrarmi più sul lavoro, farmi coinvolgere meno dalle relazioni, da quello Brava. Che le persone ti dicono. Guarda, posso darti un consiglio? Devi fare sì, come certo. me. Io quando vado, io non ho mai avuto un lavoro fisso, ho sempre lavorato un po' qua, un po' là, perché facendo il collaboratore. Sì. Ecco, tutte le volte, per evitare di farmi coinvolgere troppo, davo dei nomi falsi. Cioè, anche qui loro non sanno che mi chiamo in questo modo. No, ma dai colleghi. E appunto, ai colleghi do il nome falso. Scusa, ma chi sono? Ma quelli che sono lì con te. Sì, loro sanno che mi chiamo Filippo della Notte, e in realtà no, non è vero. Non posso farlo. Ma invece devi farlo, perché in questo modo, scusa, ti trai un po' fuori da questo mondo di bene. Il collega che sta vicino e che dice che non sa far niente, che ha bisogno che tu gli dai una mano, e perché no? E io che invece ho imparato sempre da sola, che magari gli do le regole per fare le cose, ma non gli voglio dire le cose, no? Cioè tu non è che gli compri il pesce, gli dici fai, gli compri il pesce? Gli compri il pesce? No, sai quella cosa che dice non dare a chi ha bisogno di, com'era? Il ah pesce, sì, ma insegnami a pescare. Già, sì, come ti no. Ti ricordi? Sì, ecco, come no, guarda figurati. Che è importantissima. E non è che lo fa, io siccome sarei troppo buona che vorrei aiutare tutti quanti, poi mi accorgo che resto indietro col lavoro, che mi vengono le paturnie psicologiche a fine mattina o durante la mattina, devo farmi coinvolgere proprio di meno, hai capito? Comunque se non sto qua a farti tutto ecco. un elenco. No, figurati, questo è il tuo primo buon proposito, ne hai questo, altri? La seconda. Il secondo invece è quello che così ho vissuto quest'anno, dei periodi così di tristezza interiore, di varie cose. L'altro giorno con la telefonata di una mia amica mi ha messo un'allegria pazzesca, perché abbiamo condiviso un sacco di cose. Pensavo in certi momenti della vita, pensi che nessuno possa essere come te e condividere, invece è stato bellissimo. E ora mi sono proposta, non dico ogni giorno, ma insomma durante la settimana almeno 3 volte sentire qualche persona ancora al telefono. Preferirei farlo, sai, vedendole, ma intanto tu ci comincio col telefono. Sì, guarda, è una cosa che faccio anch'io. No, è vero. No, Maggie, lo faccio anch'io per combattere la solitudine, soprattutto la sera, quando mi sento un po' così, alzo il telefono, faccio il numero e sento questa voce che dall'altra parte dice: sono le 21 e 15 secondi, sono le 21 e 16 secondi, sono le 21 e 17 secondi. Vacanze. Mina si lamenta perché è stata in vacanza, poi è tornata, poi in tante canzoni Mina invece si lamenta perché l'uomo di turno non la porta in vacanza, è una donna incontentabile. Abbiamo sentito prima Bridget Jones che faceva i suoi propositi per l'anno nuovo, ma non li fanno solo le donne i buoni propositi come anche Maggie, ci sono anche gli uomini che fanno le letterine con i buoni propositi. Ho trovato una cosa storica, più che storica, veramente molto alta, qui si parla di altissima cultura teatrale, un pezzo da Natale in casa Cupiello di Edoardo. Cara madre, tanti auguri per il Santo Natale, cara madre. Nata volta. E queste già l'hai detto. Asca, l'ha detto una volta, due volte, 10 volte, che te ne importa? Stai zitto, lo sai, il ragazzo ha avuto la malattia di nervi, è nervoso, guarda la gamba, guarda. La vedo. Cara madre, da oggi in poi voglio diventare un bravo giovine. Ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami a gambisa, magli e calzettine. Cara madre, ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami un bel regalo. Questo te lo dissi l'anno passato e questo te lo dico anche adesso. E se lo dici magnanna. Ogni anno la stessa cosa, gli stessi buoni propositi, va bene, non lo farò più, lo farò, sarò più costante. Ma Gianluca Nicoletti, per esempio, che buoni propositi ha pronti per l'anno prossimo? Ciao. Ciao Gianluca, finalmente ti ho ospite nel mio programma dopo essere stato molte volte ospite nei tuoi. Figurati, non è. Sto rendendo il piacere, sto rendendo la gentilezza. Allora, anche tu torni, lunedì, vero? Sì, torno lunedì, in questa sorta di anno liturgico dei palinsesti radiofonici. Il primo dell'anno è lunedì per me, anche se poi è solo l'inizio mesto di settembre, tutto qua. Ma no, neanche tanto mesto, dai, alla fine si sta bene, è anche più fresco, qui c'è stato un temporale, per cui non possiamo lamentarci. Hai ragione, è un mese ottimista per me settembre, perché uno aspetta le ferie, non io, per me le ferie è l'incubo peggiore dell'anno. Già doverci cominciare a pensare a gennaio mi mette i brividi comunque. Poi quando uno è lì si stravacca, passa le giornate, non pensa a niente, rimpiange il telefono che non suona, rimpiange le persone che lo ignorano e via dicendo. Quando comincia ad arrivare a settembre ormai ha la scimmia sulla spalla, non vede l'ora di ributtarsi dentro, quindi è veramente l'inizio. Poi ecco, a metà ottobre già passa tutto l'entusiasmo, però col buon proposito è di ritornare dell'intossicante quotidiano clima urbano e continuare a lavorare, che già questo mi sembra una delle più grandi fortune in questo momento che ci possano essere permesse. Esatto. Senti, ma allora cosa cambia qualcosa a Melog da lunedì o no? Ma i cambiamenti programmati non sono io, ogni anno mi penso, cioè oggi cambiamo il format, poi alla fine il format è autoformattante, nel senso che giorno per giorno è la realtà che ci dà forma e ci dà modo di pensare. No, cominciamo come se ci fossimo lasciati il giorno prima, trovo sia il modo migliore. Alla radio, sai, non si richiedono grandi artifici, basta che ti metti in gioco, basta che ci sei, basta che fai vedere che comunque mantieni l'impegno di esserci ogni giorno. Sai, l'unica fattispecie potrebbe impedirlo sono problemi di salute, incidenti, gravi attentati, impossibilità di deambulazione. Per il resto, figurati, non chiediamo di meglio noi che avere questa chance di poter parlare. Certo che stavo pensando, tu dici ricomincio dove avevo finito, dove avevamo terminato. In realtà in questi mesi non è successo molto che ci abbia cambiato l'esistenza. È stata un'estate abbastanza soporifera, dai. No, c'è stata un'accelerazione emotiva su cose che già sapevamo che era un periodo un po' micragnoso, e lo sapevamo anche a luglio, ce lo siamo detto, ti ricordi? Non è che adesso tutto quello che è accaduto da luglio a settembre ci farà tremare più di tanto, non è che abbiamo poi tutti questi beni al sole. Che c'è di nuovo? È iniziato il processo a Vetrana, potremmo vedere quanto si scambieranno gli sguardi zio Michele e Sabrina, che saranno le novità che verranno confezionate giorno per giorno dalla grande macchina produttrice di senso che è la televisione. Cos'altro vuoi che accada? Ecco, no, quindi andiamoci a infilare negli interstizi, che è quello che è il nostro mestiere, certo. Guardiamo attraverso le fessure, cerchiamo di capire, di cogliere al volo se esiste il serpeggiante nelle opinioni, nei pensieri, qualcosa che ci colpisca come nuovo, vedi, qualcosa di originale, raccontiamolo. Per il resto la grande macchina, figura, già sono tutti pronti, io già ho anticipazioni delle grandi redazioni, dei grandi talk, sono tutti a vedere il giovedì cosa succederà, Santoro contro Formigli, il padre contro il figlio che ha abbandonato la linea paterna, allora subito contro programmazione Vespa cosa farà. Ecco, sembra che la grande macchina produttrice di realtà parallela si sta muovendo per darci l'idea che accada qualcosa, ma non è accaduto assolutamente nulla. E forse non accadrà nulla. Ci vediamo vivi, questo è il più grande accadimento per noi. Certo, poi fra l'altro la grande macchina è stata un po' in letargo in questi ultimi mesi, soprattutto quelli estivi, non è che si sia data da fare molto, eh? Ah, figurati, ma quello che ho visto in Rai è grottesco, cioè o l'impressione generale era pompata, quindi era tutto normale, ma c'è stata un acuirsi della crisi libica, c'è stato comunque una situazione internazionale abbastanza tesa, una situazione nazionale su cui c'è senz'altro da ragionare. Ogni mattina vedo tranquillamente la signora che faceva le diete, il signore che raccontava le facezie, l'altra che spalmava, certo, le tremine, certo. I consigli cosa fare al mare per abbronzarsi bene, adesso cominciano i consigli, come mantenere la tintarella, come fare. Io sono un rimpianto, lo sai qual è il mio rimpianto? Quale? Non sono riuscito ad andare nella mia masseria in Salento a fare il corso di pizzica, stavo per prendere la cintura nera di pizzica, ma penso non ci sono riuscito. Questa è veramente una grande iattura. Questa è la tua fortuna, altrimenti non ti avrei telefonato. La bella estate. Allora, sei ancora lì, Gianluca? Certo, sì. Ah, non ecco. Ti posso dire che sto facendo, cioè, se no te lo racconto. No, dillo. Ho cercato di attaccare un televisore a muro usando quelle staffe metalliche che vanno montate prima. Ci sono riuscito, sembra impossibile. Ho attaccato un televisore 42 pollici al muro da solo. Ma è fantastico. Notiamo fra l'altro una cosa, che nel passaggio dal televisore col tubo cattodico a quello piatto LCD o plasma è nato tutto un indotto, poi appunto di staffe, mobili, canaline, è una cosa incredibile. Sì, cioè, cioè, non ho montato le canaline, ecco vedi, la ferita mortale. Avevo finito, messo i cavi, ecco, vedo qua, guarda, ti faccio sentire la sonorizzazione. Sì. Rumore di canalina non montata, ecco. E devo ricominciare da capo. Ecco, quindi il tuo primo buon proposito per l'anno nuovo è montare la canalina del televisore. Eh sì, bisogna seguire le istruzioni, ho avuto questo atto di ibris di potercela fare da solo e invece vedi. Hai altri buoni propositi? Ma guarda, mi piacerebbe riuscire ad avere il tempo di scrivere una cosa che avevo iniziato l'estate scorsa, pensando di prendere in mano quest'estate, ma nemmeno ho aperto il file perché ho avuto altre contingenze familiari di cui occuparmi. Piacerebbe avere un po' il tempo per scrivere, questo sì, mi piacerebbe, ma per me senza fine, senza la necessità di farlo l'ora per l'ora dopo perché devo uscire sul giornale e via dicendo, il tempo della scrittura pensata, che faccio tutto così, cotto e mangiato, sono abituato a fare le cose sempre all'impronta, sempre svelte, sempre cotte e mangiate. Cioè, fare qualcosa di un pochino pensato, ma non lo farò mai, sicuro. Hai detto cotto e mangiato e ho sentito un urlo subito dopo e ha interpretato il mio pensiero. Ormai quando sento quell'espressione mi viene da cambiare canale, guarda, cotto e mangiato. Ma così, già, beh, sai, è il best seller di questi ultimi anni, lo so. Fortuna letteraria, il libro più letto dagli italiani. Io quando vado ogni tanto lo trovo, lo sfoglio e vedo le ricette del tipo il toast, il brodino, cioè veramente ricette complesse che per la Saverin si sta girando nella tomba. Senti Gianluca, ci pensavi te, dimmi. Oggi saresti te. Ma guarda, la ricetta più venduto d'Italia, la ricetta da pensare, sì. La confezione è quella, vero. È la cucina del povero Ubarelle, del disperato, sì. Però saputa ben confezionare con un bel brand che è la Parodi che la presenta e quindi funziona, sai, tutti sono contenti, da lunedì il brodino col dado e sono felici. Da lunedì ci penserò e cercherò di trovare anch'io qualcosa del genere. Gianluca, grazie, buona continuazione. Ciao, nell'applicazione della canalina. Ciao, ciao, ciao. Difficilissimo, si chiama Nil Kara Ibrahimigl ed è turca anche lei, naturalmente, visto che oggi ho detto vi faccio sentire un po' di canzoni turche, visto che siete stati tutti in Turchia. Bene, non voglio assolutamente sapere cosa avete fatto, non mi interessa niente delle vostre vacanze turche, voglio invece sapere l'800 24 00 24 quali sono i vostri buoni propositi per quest'anno che comincia oggi, perché ripeto, l'anno ormai comincia il 1° di settembre. Bisogna essere sempre molto quadrati, molto pragmatici, molto Paronzini. Che è Paronzini? Berenziano Paronzini, il personaggio di Piero Chiara, che fu interpretato da Tognazzi in un film che aveva le idee molto molto chiare sul suo futuro. Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta. Basta con le soluzioni avventurose. Alla mia età, come dice il Mantegazza, l'uomo ha bisogno dei famosi 3C, carezze, caldo, comodo. Non è mica facile. Tratto signorile con sesso debole, serietà sul lavoro, niente compromessi, poca confidenza con la gente, poche ma scelte pubbliche relazioni, allargare i propri orizzonti, niente bar, niente circoli, un po' di chiesa, aspetto fisico, aspetto morale, aspetto un mese e mi sistemo. L'ho fatto mio questo progetto, naturalmente tutti gli anni cerco di applicarlo, non lo realizzo mai, perché le famose 3C, caldo, carezze, comodo, sono sempre più difficili da trovare. Non è l'unico elemento cinematografico di... mi sono divertito un po' a cercare queste cose nei vecchi film, di questi propositi per l'anno nuovo o anche non per l'anno nuovo. Ogni giorno, potrebbe dire il saggio, è un anno nuovo. C'è un brevissimo frammento adesso di Mastroianni che si guarda allo specchio e scopre di essere un po' così in crollo e cerca di correre ai ripari. In fondo sono un tipo interessante, intelligente. Ma lo stomaco, lo stomaco. Bisogna eliminare i grassi, bisogna eliminare gli zuccheri, i farinacei, Bisogna eliminare tutto. Bisogna eliminare tutto. Questa è la dieta drastica di Mastroianni, che fa sempre bene. No, adesso gli dietologi poi diranno: no, per carità, se non mangi 8 volte al giorno no, ti fa male, lo stomaco comincia a mangiare se stesso, non lo so. Però è un altro dei problemi che abbiamo nel passaggio di stagione dall'estate all'autunno, è quello del cambio di guardaroba, perché tutti vogliamo cambiare il guardaroba, non possiamo permetterci, capiamoci, perché non abbiamo più un soldo, ci hanno detto che siamo in crisi, c'è la manovra, ci sono tasse, c'è qualunque cosa, quindi mai e poi mai potremo permetterci qualcosa di nuovo. Eppure c'è chi sa dare dei consigli di arredamento, no, di abbigliamento, consigli a cui non possiamo rinunciare. Un'altra lettera mi viene da un piccolo paese della Sicilia ed è firmata Bruna nell'imbarazzo. Alta 1,45, peso chilogrammi 70, devo farmi un cappottino. Potendomene fare uno solo, come regolarmi? Secondo Harper's Bazaar, la risposta è una sola: viola. Non ti mancherà una tenda, una coperta, uno scendiletto, insomma, qualcosa di morbido e di caldo che dopo aver tinto con uno di quei meravigliosi ritrovati che ha qualsiasi buon droghiere, potrai tagliare e cucire in casa e non ti costerà niente. E auguri! I must have left my house at 8 because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was 2. Questa è una delle canzoni più tristi che siano mai state scritte. E il testo è una cosa da suicidio. Lei che racconta la sua triste vita, che si alza, prende il treno, va a lavorare, mangia coi colleghi, poi torna a casa, guarda Dallas, va a dormire. Insomma, la vita che vi aspetta da oggi in poi, perché oggi è il 1° settembre, per cui non pensate di andare a ballare sulla spiaggia intorno al Falò. Quello lo faremo domani, perché nell'ultima puntata c'è la festa intorno al Falò. Non voglio pensare nemmeno... proprio non voglio pensarci. Voglio parlare invece con Alberto da Torino. Pronto, Alberto? Ciao. Anche a te. Allora, buoni propositi? Buoni propositi, ma molto semplice, voglio semplicemente di progredire. Oh, che bello. Sia umanamente che professionalmente. Oh, sì. Mi sono sposato da poco, una figliola in arrivo. Il lavoro, oggi festeggio 3 anni nel mio nuovo lavoro, spero che sia l'ultimo nella vita, nel senso, mantenerlo finché campo, perché mi piace un sacco. Ah beh, se ti piace allora è un'altra cosa, certo. Sì, no, era dal 2003 che ci provavo, ci sono riuscito nel 2008 a entrare, quindi il 1° settembre 2008. Quindi ce l'hai fatta. Ah, proprio, infatti hai detto proprio oggi, quindi compiuto il tuo, si può dire, terzo compleanno, aziendale. Terzo anno aziendale. Ma naturalmente vuoi aumentare nella carica aziendale, non vuoi fermarti lì? Una lenta progressione, piano piano, certo non voglio bruciare le tappe perché è una cosa un po' particolare, quindi non, l'azienda non è grandissima, quindi non c'è spazio di crescita infinita. Vabbè, però ci sono anche delle cariche, che so, Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, Soglio Pontificio, cioè uno può sempre migliorare. Ma sai, nella vita non bisogna mai porsi dei limiti. Imperatore del Sacro Romano Impero, se fosse ma quello, imperatore del cosmo, sai, queste cose da fantascienza. Guida galattica per autostopisti. Vabbè, allora, se questo è il tuo buon proposito, beh, in bocca al lupo, perché lo realizzerai sicuramente, me lo sento. Ti ringrazio. E se non me lo sento io, guarda, adesso abbiamo un ospite straordinario al telefono, sì, che potrà dirci delle cose molto interessanti sul nostro futuro, perché abbiamo con noi tornata, l'abbiamo già sentita qualche settimana fa, è tornata Maria, astrologa e cartomante. Maria, buongiorno. Buongiorno e buon pomeriggio a tutti voi. Grazie Maria, qualche settimana fa avevamo parlato dell'estate, come sarebbe andata l'estate. Ecco. Oggi è il 1° settembre, dobbiamo necessariamente parlare di come andrà almeno l'autunno. Certo, e diciamo che finalmente finisce un periodo un po' caldo dal punto di vista di rivoluzioni e sommosse, infatti abbiamo visto che questa posizione di Plutone retrogrado dal 7 aprile ha portato questa rivoluzione in Libia, queste sommosse in Inghilterra, insomma adesso dal 17 settembre speriamo di stare un po' tranquilli, ecco. Potrebbero non leggere più brutte notizie. Secondo te quindi dal 17 settembre le rivolte si placano, cosa succede? Ma non è che si placano, però diciamo che il peggio è passato, ecco. Perché abbiamo tutto un passaggio di pianeti lenti, detti comunque sociali, quindi che colpiscono un po' tutta l'umanità, sì, che procurano o dei rallentamenti, infatti chi aveva degli affari sono stati un po' rimandati o comunque non conclusi, e avremo modo di concluderli, ecco, e soprattutto purtroppo anche delle questioni legali e fiscali lasciate in sospeso. Quindi il mio consiglio è: non dimenticatevi le bollette, non dimenticatevi di pagare delle cose che adesso purtroppo potrebbero arrivare le note dolenti, ecco. Lo quindi, so che sì, mi odieranno. No, ma è vero, cioè uno deve pagarle anche le bollette, perché la bolletta è qualcosa che tu paghi per le un servizio. Le multe, queste cose qui, che poi uno, ecco, questo non è un gran periodo, ecco, perché arriveranno un po' di nodini al pettine. Ma c'è qualche segno più predisposto a dimenticare questi pagamenti? Ma più che dimenticare, diciamo che un po' ha un po' paura di affrontare le cose. Noi acquari, se non affrontiamo subito, ci viene un infarto. Ecco, noi, hai detto noi perché sia tu che io siamo dell'acquario, specifichiamo. Un infarto se non risolviamo subito le cose. Mentre segni mobili, no, un po' più diciamo resti ad affrontare le cose, sono la Vergine, il Sagittario, anche a volte un po' i Pesci e il Toro sono un po' più lenti alla reazione. Quindi il consiglio è appunto che questi segni soprattutto non perdano il controllo, perché prima di tutto va usato il cervello, respirare e non dire delle cose spiacevoli, e quindi di affrontarle, magari facendosi aiutare anche con umiltà da dei professionisti, ecco. O magari da quelli come noi, appunto, dell'acquario, che risolvono prima le cose. È vero, e paghiamo in anticipo. Ci facciamo sempre gli affari degli altri, poi ci dicono: ma te non ti potevi fare gli affari tuoi? Cioè, ma no, è un po' tragica la cosa, ma è vera, insomma. Poi ci andiamo a infilare sempre in storie strane. Senti, ma invece un consiglio dimmi. Do al cancro, sì, alle persone del cancro, di che hanno delle cose, dei ritardi, degli ostacoli, soprattutto dal punto di vista finanziario e diciamo di firme, di contratti, così, di leggere bene le parole piccole, perché ci potrebbe essere qualche incomprensione o truffa in agguato, ecco. Quindi stare un po' attenti, ecco. Addirittura truffe. Senti, no, dico addirittura truffe per il cancro. Ma no, truffe no, ma di furboni che li prendono in giro, sì, che la tirano lunga e poi sono inconcludenti. Ecco. Certo, certo. Senti Maria, ma secondo i pianeti, secondo il cielo, questa crisi che ci sta angosciando da ormai qualche anno, da cosa è dipesa? Allora, intanto è dovuta dalla posizione di un pianeta, soprattutto, che purtroppo è tristemente noto, anche ha iniziato nel 29, la famosa crisi del 29, questo Urano in Ariete, che non è un granché dal punto di vista economico, e soprattutto crea questa, diciamo, io la chiamo crisi a singhiozzo, perché molti avranno visto, soprattutto chi ha un'attività in proprio, che questa crisi, prima c'è la crisi, poi sembra che riparte tutto, poi si ferma di torna nuovo, con la poi crisi, riparte, esatto, tutto. Sì. Questo è dovuto dal pianeta che prima avanza e poi si muove in moto retrogrado, quindi avanza e va indietro, avanza e va indietro. Quindi crea anche, soprattutto, malumore e disorientamento. Ma adesso andrà avanti? Allora, adesso per fortuna andrà avanti, sarà un po' ancora, soprattutto per l'Italia, perché sai che l'Italia è nata sotto il segno dei Pesci, perché sì, hanno detto che l'Italia è nata il 17 di marzo, e quindi dei Pesci, abbiamo festeggiato i 150 anni. Esatto. E quindi, dato che Nettuno tornerà in Pesci, quindi definitivamente ci sarà qualche prospettiva positiva, dimmi questo, perché stiamo per chiudere. Dal 4 febbraio 2012, ecco, quindi. Però tenete duro, non mollate, che sono solo gli ultimi colpi brutti, va bene. Quindi non mollare. Maria, grazie, ci hai dato una iniezione di speranza, grazie ancora, ecco, tanto. Grazie a voi, ciao. Buona serata. Ciao, ciao. È volata anche oggi, quindi il mio unico buon proposito è quello di tornare domani per l'ultima puntata, che si chiamerà La Luna e i Falò. A domani, ciao.